Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. L'onorevole Ignazio Capolino non stava nei panni dalla gioia. Migliaia di operai del suo collegio, inferociti dalla fame per la chiusura delle zolfare del Salvo, minacciavano tumulti, rapina, incendi, strage. Aurelio Costa, esposto all'ira di quelli per le promesse fatte a nome del Salvo, fremeva di indignazione alle lepidi ciance di Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato al Ministero d'Agricoltura. E lui gongolava beato dell'insperata affabilità, del tratto confidenziale da vecchio amico con cui quella sotto eccellenza lo aveva accolto. Chiedendo per il Costa quell'udienza, aveva temuto che l'ostentato prestigio, la vantata amicizia personale coi membri del governo messi alla prova, avrebbero sofferto la più affliggente mortificazione. E invece? Ma sì, matti da legare, benissimo, nemici dell'ordine sociale, quei zolfarai là, gente facinorosa, ma sì, esaltata da quattro impostori degni della forca. Misure estreme? Di estremo rigore? Ma sì, benissimo, non ci voleva altro. Viso fermo, già, polso duro, umanità? Ah, sicuro, fin dove era possibile, già, caro. Ma come no? E accennava con timidezza mal dissimulata d'allungare una mano per batterla o sulla gamba o dietro le spalle del sottosegretario di Stato, come un cagnolino che, dopo essersi storcignato per fare le feste al padrone che teme severo, s'arrischia a levare uno zampino per far la prova d'averlo placato. Quanto a quel disegno di un consorzio obbligatorio tra tutti i produttori di zolfo della Sicilia, studiato dall'amico ingegnere lì presente, oh, valorosissimo e tanto modesto, già del corpo minerario governativo, sì, e uscito dalle Col de Mine di Parigi, quanto a quel disegno, ecco, se almeno Sua Eccellenza il Ministro avesse voluto degnarlo di uno sguardo, no, impossibile, vero, Il momento, già non era il momento quello. Nuova esca al fuoco, sicuro, non ci voleva altro. Ah sì, bravissimo. Ah caro, ma come no? Uscì dal palazzo del ministero, tronfio e congestionato come un tacchino, mentre Aurelio Costa, per sottrarsi alla tentazione di schiaffeggiarlo o sputargli in faccia, pallido e muto, allungava il passo e lo lasciava indietro. «Ingegnere!» Il Costa, senza voltarsi, gli rispose con un gesto rabbioso della mano. «Ingegnere!» lo richiamò Capolino, raggiungendolo fieramente accigliato. «Ma scusi! È pazzo lei! Ma che pretendeva di più? Mi lasci andare!» «Per carità, me lasci andare!» gli rispose Aurelio Costa, convulso. «Corro al telegrafo! Venga qua lui, Don Flaminio! Io me ne riparto domani!» «Ma se calmi! Ma dice sul serio?» riprese con tono tra arrogante e derisorio Capolino. «Ma che voleva lei da un sottosegretario d'Stato? Che le buttasse le braccia al collo? Io non so, ma meglio di così. Ma non m'aspettavo io stesso una simile accoglienza.» «Sfido!» ghignò fremente il Costa. «Se lei... io che cosa?» rimbeccò pronto Capolino. «Voleva promesse vaghe? Fumo? Mi ha trattato e mi ha parlato da amico. Davvero, amico. E metta che io sono deputato d'opposizione, che sono stato combattuto dal governo accanitamente nelle elezioni. Lei lo sa bene.» «Non so nulla, io», sbuffò il Costa. «So questo soltanto, che avevo l'ordine positivo, che il disegno almeno fosse preso subito in considerazione dal governo. E lei non ha speso una parola. Lei non ha fatto che approvare. Capolino lo arrestò, squadrandolo da capo a piedi. Ma parlo con un uomo, o parlo con un ragazzino? Ma dove vive lei? Ma può credere sul serio che in un momento come questo, in mezzo a questo pandemonio, si possa attendere all'esame del suo disegno? L'ordine! Abbia pazienza! Ma quando ricevette lei quest'ordine da Flaminio Salvo? Prima di partire, è vero? A me scusi, ormai... Ecco qua! E Capolino, con furioso gesto di sdegno, trasse fuori dal fascio di carte che teneva sotto il braccio la partecipazione delle speciose nozze di Sua Eccellenza il Principe Don Ippolito Laurentano con donna Adelaide Salvo. L'avrà ricevuto anche lei, disse. Si stia zitto e non pensi più né a ordini né a progetti. Ah, dunque, un giuoco, esclamò Aurelio Costa, con la pelle degli altri. Ma che pelle, fece Capolino con una spallata. Con la mia pelle, con la mia pelle, sì signore, riaffermò il Costa, infiammato d'ira. Con la mia pelle, perché dovrò tornarci io laggiù, ad Aragona, tra i zolfarai. E sa lei come li ritroverò dopo 7 mesi di sciopero forzato? Tante iene. Ma perché dunque mi ha fatto promettere a tutti, anche qua adesso, a Nicasio Ingrao, al figlio del principe, e tutti gli studi fatti? Caro ingegnere, scusi, disse placatamente Capolino, con gli occhi socchiusi, trattenendo il sorriso. Lei pratica con Flaminio da tanti anni e ancora non si è accorto che Flaminio non è soltanto un uomo d'affari, ma anche un uomo politico. Ora, la politica, sa, bisogna viverci un po' in mezzo. La politica, signor mio, che cos'è? In gran parte gioco di promesse e via, e lei, scusi, va a cacciarsi in mezzo proprio in questo momento. Io? Proruppe Aurelio Costa portandosi le mani al petto. Io? E mezzo? Ma sì, affermò con forza Capolino. Come un geco, scusi. E non dico soltanto per questa faccenda qua del progetto. Lei non vede nulla. Lei non capisce. Non capisce tante cose. Ti ascolta a me, ingegnere. Non si imbicci più di nulla. Se ne torni al suo posto. Mi duole, creda, sinceramente, veder fare a un uomo come lei, per cui ho tanta stima, una figura non bella, via, non bella. Avrebbe potuto essere dato prima queste parole a bocca aperta, trasecolato. Poi si fece pallido e abbassò gli occhi per un momento. Infine, non riuscendo a frenare l'impeto della stizza, a me, balbettò, a me, dice così, a me. Ma io, ma quando mai io, a quali cose io mi sono cacciato in mezzo di mia volontà? Mi sono sempre strascinato io, tirato per i capelli. E sono stufo, sa, stufo, stufo di queste imprese, di queste intrighe e bizze e scandali. E scandali poi, fece Capolino. Sì, signore, scandali, seguitò Aurelio senza più freno. Scandali qua, laggiù, e se non li vede lei, li vedo io. Basta, basta. Io non ho voluto mai nulla, non ho aspirato mai a nulla per sua norma, altro che di stare in pace con la mia coscienza e tranquillo facendo ciò che so fare. E basta! Venga qua lui, ora, e pensi dopo le promesse fatte ad aggiustare bene le cose, perché laggiù, ripeto, devo tornarci io e la pelle non ce la voglio lasciare. Ignazio Capolino lo seguì un tratto con gli occhi, poi si scosse con un altro ghigno muto e tentennò a lungo il capo. Se avesse saputo che la vera ragione per cui Aurelio Costa voleva che Flaminio Salvo venisse a Roma era quella stessa appunto per cui egli voleva che non venisse sua moglie. Il calore con cui difendeva quel disegno studiato veramente con tutto lo zelo scrupoloso che metteva in ogni sua opera, e la stizza nel vederlo senza alcuna considerazione e quasi deriso, provenivano in fondo dal calore di un'altra passione, dalla stizza per un altro smacco, di cui egli, per non mortificare innanzi a se stesso il suo amor proprio, non si voleva accorgere. Allontanato da Flaminio Salvo, da Girgenti, con la scusa di quel disegno, proprio nel momento in cui la figlia sapeva che Nicoletta Capolino era a Roma col marito, era accorso come un assetato alla fonte. Aveva creduto di ritrovar qui Nicoletta come l'aveva veduta l'ultima volta a Colimbetra, piena di lusinghe per lui, ardente e aizzosa. E invece, per miracolo, non s'era messa a ridere nel leggergli nello sguardo profondo il ricordo di quella sera indimenticabile. Flaminio Salvo, ora che donna Adelaide era andata a nozze, certamente avrebbe avuto bisogno di Nicoletta Girgenti, per la figliuola, si intende, per quella cara Dianella senza mamma. Se non oggi, domani avrebbe scritto per pregarla di ritornare. Non gli pareva l'ora all'onorevole Ignazio Capolino. Ma ecco, adesso, quell'imbecille del Costa che veniva a guastargli le uova nel paniere. La pelle. Temeva per la pelle, pezzo d'asino. Ma già, se non era stato buono in tanti anni neanche ad accorgersi che Dianella lo amava, che aveva sotto mano la fortuna, e una simile fortuna, come avrebbe riconosciuto ora che meglio di così un deputato d'opposizione non poteva essere accolto da un sottosegretario di Stato? E aveva osato rimproverargli le approvazioni. Ah, ma sicuro, per far piacere a lui doveva difendere i zolfarai, quasi che nelle ultime elezioni egli fosse andato su anche col suffragio di quei galantuomini. Messo tra il governo e i socialisti, poteva un deputato conservatore d'opposizione esitare nella scelta? Ma andate a ragionare di queste cose con uno a cui la fortuna dava il pane perché lo sapeva senza denti. Intanto Flaminio Salvo, per seguitare da un canto la commedia di quel progetto e aver modo dall'altro d'abboccarsi con Lando Laurentano, che non aveva voluto assistere alle nozze del padre, senza dubbio sarebbe accorso alla chiamata e certo avrebbe condotto con sé Dianella, che non poteva restar sola a Girgenti, e sarebbe forse rimasta a Roma per un pezzo, Dianella, presso gli zii, per divagarsi e chissà. Gli occhi di Flaminio Salvo vedevano molto lontano. Lando andava qualche volta in casa Bella e chissà, rimanendo Dianella a Roma, addio ritorno di Lellè a Girgenti. Così pensando, Capolino sbuffava e gli occhiali seri, con staffe, cerchietti e sellino di tartaruga, gli si appannavano. Non passò neanche una settimana che Flaminio Salvo fu a Roma insieme con Dianella, come Capolino aveva preveduto. Dianella arrivò come una morta. Flaminio Salvo, al solito, sicuro di sé, con quel sorriso freddo sulle labbra, a cui lo sguardo lento degli occhi sotto le grosse palpebre dava un'espressione di lieve ironia. Furono ospitati da Ivella, che insieme coi coniugi Capolino e il Costa si recarono ad accoglierli alla stazione. Capolino accompagnò Flaminio Salvo in quella gita al villino di via Somma Campagna, tanto all'andata quanto nel ritorno. La strana impressione, quasi di sgomento, che gli aveva fatta la vista di Dianella all'arrivo, si raffermò al discorso che gli tenne il Salvo lungo la via. Fu al solito un discorso sinuoso, pieno di sottintesi e di velate allusioni, da cui parve a Capolino di poter desumere questo: che il Salvo era davvero fortemente impensierito non dalle condizioni politiche della Sicilia, ma dalle condizioni di spirito della figliuola, le quali tanto più dovevano dar da pensare in quanto che la madre era pazza, che egli intendeva perciò di contentarla se quel viaggio a Roma non riusciva agli effetti che se ne riprometteva, contentarla, anche perché, uscita ormai di casa la sorella, egli, non avendo più alcuno che stesse attorno alla figliuola bisognosa di cure, d'affettuosa compagnia, di distrazioni, avrebbe dovuto sacrificare troppo agli affari, e non poteva. E qui parve a Capolino di dover notare un grave rimprovero per sua moglie, che aveva osato lasciar sola anche donna Adelaide nell'avvenimento delle nozze. Contentarla, infine, anche per dare ad Aurelio Costa, che presto fra 2 o 3 giorni sarebbe tornato in Sicilia, un premio degno se riusciva a ridurre a ragione gli operai delle zolfare. Queste deduzioni così chiare del lungo discorso a mezz'aria del Salvo costarono a Capolino un così intenso sforzo che uno dei cristalli degli occhiali, continuamente appannati dagli sbuffi, gli si infranse tra le dita nervose a furia di ripulirlo. Fortuna che le scagliette del cristallo si infissero soltanto nel fazzoletto, senza ferirgli le dita. Ma la sera dovette parlare, e seriamente, alla moglie, senza occhiali. Nicoletta sapeva che l'improvviso arrivo di Flaminio Salvo e di Dianella a Roma era dovuto al Costa. Più perspicace del marito, aveva subito preveduto che questo arrivo avrebbe segnato la fine della sua cuccagna, ed era perciò così gonfia d'odio contro quello che lo avrebbe ucciso senza esitare se le avessero assicurato l'impunità. «So come debbo dire, non dubitare», riprese Capolino con molta gravità, abbassando gli occhi. «Tu ignori il discorso che mi ha tenuto Flaminio questa mattina. Ti ho detto nulla finora del suo prolungato soggiorno a Roma. Nulla. E tu stessa ti sei rimproverata di non essere partita per assistere a Adelaide nel giorno delle nozze. Ora, la tua assenza da Girgenti, sai quell'effetto ha prodotto? Questo semplicemente, che Flaminio Salvo, lasciato solo e stanco, ha deciso di contentar finalmente la figliuola». Nicoletta restò a questa notizia. Capolino si strinse nelle spalle come per dire: «Dopotutto, che male!» «Ah no, caro mio!» riprese con impeto la moglie. «Non me ne importerebbe nulla se, per il mio interesse, come tu dici, non mi vedessi costretta a fare questa parte. E tu dimentichi un'altra cosa, che codesto signor ingegnere chiese un giorno la mia mano e che io la rifiutai perché non mi parve degno di me. Bella vendetta adesso per lui diventare sotto gli occhi miei il fidanzato della figlia di Flaminio Salvo. Ma questo, semmai, di fronte a te che l'hai rifiutato», le fece osservar Capolino, «potrà essere ragione d'avvilimento per la figlia di Flaminio Salvo». «Eh già!» esclamò Nicoletta, levandosi, «perché io adesso sono la moglie dell'onorevole deputato Ignazio Capolino, che vale molto di più! Te prego di credere!» gridò questi, dando un pugno sulla tavola e levandosi in piedi anche lui, fiero. Nicoletta lo squadrò, calma, di sotto in su, poi disse: «Quanto a meriti, non oserei metterlo in dubbio. Però io debbo partire, ecco, sempre per il mio interesse, come tu dici. Che vuoi, i meriti, caro, non hanno spesso fortuna». «Mi fa rabbia anche a me», disse allora Capolino, «che uno stupido, un imbecille di quella fatta debba salire così, tagliato sotto la tua fuori della sorte, cacciato a spindoni come una bestia bendata e restia. Perché egli, sai, l'ha detto a me, non vorrebbe nulla, e questo è bello, non si accorge di nulla, non capisce nulla, e la fortuna lo aiuta. Domani, genero di Flaminio Salvo». «Ah no!» scattò Nicoletta. «Questo matrimonio non si farà, te l'assicuro io, non si farà». Quanto composto e grave e costernato l'onorevole Ignazio Capolino con quei funebri occhiali di tartaruga, tanto appariva stordito, acceso e abbagliato Aurelio Costa. Gli si leggeva chiaramente in viso l'emozione profonda che la notizia della sua prossima partenza con Nicoletta gli aveva suscitato. Non sentiva più la terra sotto i piedi, non riusciva ad articolar parola. Nel vederlo entrare, Nicoletta ne ebbe quasi sgomento. Sentì, senza guardarlo, che egli la cercava con gli occhi, senza più badare a nessuno. Respirò nel sentirlo poco dopo discutere animatamente con Laurentano sui moti degli fasci in Sicilia. Ogni costernazione gli era svanita. Svanita ogni considerazione per quei zolfarai affamati d'Aragona, svanito il dispetto perché il suo disegno di un consorzio obbligatorio mandato a monte avrebbe ora affrontato col frustino in mano tutti quei ribelli laggiù. Flaminio Salvo, per prudenza di fronte a Laurentano, lo richiamò sorridendo a più miti propositi. «Perché le diano fuoco alle zolfare?» gli domandò tutto infervorito il Costa. «Le conosco io quei brodi. Guai a mostrare di temerli. Con la verga si riducono a ragione. Lasci fare a me. Abbandonato da tutti, senza neanche la soddisfazione di veder degnato di uno sguardo il mio progetto, andrò solo laggiù e ci guarderemo in faccia». Nell'esaltazione non avvertiva la stonatura di quella sua apostrofe bellicosa, né si mortificò affatto nell'accorgersi alla fine che nessuno gli badava più. Si lasciò condurre da Capolino nell'ampio balcone della sala, mentre Flaminio Salvo, Francesco Vella e Lando Laurentano seguitavano a conversare tra loro pacatamente. E Ciccino prometteva a Nicoletta che presto sarebbe venuto a trovarla a Girgenti. E Donna Rosa e Lillina davano consigli a Dianella che si regolasse così e così se voleva presto recuperare la salute e la gaiezza. Chiamato dal Salvo, Capolino vi entrò poco dopo e Aurelio Costa restò solo nel balcone. Nel salone, intanto, Ignazio Capolino parlava con aria afflitta del subbuglio in cui la pubblicazione di una denunzia in un giornale del mattino aveva messo tutto quel giorno i corridoi della camera. Si trattava delle 40.000 lire di cui appariva debitore verso la banca romana Roberto Auriti, notoriamente prestanome, diceva il giornale, d'un deputato meridionale molto conosciuto e nelle grazie fino a poco tempo fa, se non proprio del governo, di qualche membro hic et ec di esso. E quel giornale, seguitando, parlava delle carte sottratte per salvare questo deputato meridionale. Ma nella fretta, all'ultimo momento, qualche biglietto era rimasto fuori e caduto in mano all'autorità giudiziaria, qualche biglietto appunto dell'Auriti, ora in cerca affannosa di quelle 40.000 lire per salvare sé e l'amico. Capolino diceva che parecchi deputati dell'estrema sinistra avrebbero portato la denunzia alla Camera e prevedeva imminente l'arresto dell'Auriti. Lando Laurentano era sulle spine. Tutto il pomeriggio di quel giorno aveva cercato d'appurare donde quella notizia fosse pervenuta al giornale del mattino. Pareva riferita da qualcuno che fosse stato ad origliare all'uscio della stanza in cui Giulio Auriti aveva implorato aiuto da lui e temeva che questi potesse ora sospettarlo autore della denunzia. Il Salvo, il Bella e il Capolino, notando il turbamento del giovane principe, si misero a compiangere Roberto Auriti come una vittima. E il Salvo lasciò intendere chiaramente che egli sarebbe stato disposto ad approntare quella somma per salvarlo. Ma il Capolino disse che ormai era troppo tardi. Non restava che di prendere una tazza di tè che Lillina aveva già preparato. Beh, le prime due tazze recate da Ciccino erano andate a Donna Rosa e a Dianella. Nicoletta ne porgeva ora una tazza a Lando Laurentano. Latte? Se grazie, poco. E Dianella, sorbendo la sua, aspettava che Nicoletta si recasse al balcone con l'ultima tazza per Aurelio. Ma Nicoletta, vedendosi spiata, finse in prima di dimenticarsene e tenne la tazza per sé. Oh, è per il mio cavaliere! Esclamò poi, come sovvenendosi all'improvviso, e andò nel balcone. Appena Aurelio la vide comparire, si ritrasse istintivamente nell'ombra quanto più poté per attirarla. Ma ella varcò appena la soglia del balcone e, porgendogli la tazza, disse piano, rigida: «Rientri, per carità. Lei si fa notare. Non faccia ragazzate. Mi dica soltanto», scongiurò egli, «sì, questo. E se lo imprima bene in mente», soggiunse lei subito, «che ho fatto di tutto per impedire la sua e la mia rovina. Non mi accusi domani, perché l'ha voluta anche lei. Ora, basta». E rientrò nel salone.